Abbiamo concluso la scorsa volta il sesto capitolo di Mishnah di Yomah. Ora iniziamo il settimo capitolo. Generale, ricordiamo che il Kohen Gadol aveva un uniforme, una serie di vesti che vestiva normalmente, che si chiamano Bigdei Zahav, si chiamano vesti d'oro. C'era anche dell'oro, dei fili d'oro e anche le catene che tenevano il pettorale, eccetera. Vesti d'oro che comunque erano delle vesti di altissimo livello, diciamo, reali, possiamo dire. E poi il Kohen Gadol aveva anche Bigdei Lavan. Bigdei Lavan vuol dire delle vesti bianche. Per vesti bianche si intende delle vesti semplici che il Kohen indossava solamente, il Kohen Gadol stiamo parlando, indossava solamente a Yom Kippur per, in particolare, quegli aspetti della Avodah, quegli aspetti del servizio del Beit HaMikdash che erano esclusivi a Yom Kippur e in particolare l'entrata nel Kodesh HaKodashim. Lì e in quella occasione non sarebbe stato giusto, diciamo, entrare come un re con le vesti d'oro, e quindi ci sono alcuni punti nella Avodah di Yom Kippur in cui il Kohen si cambia le vesti, e ogni volta che si cambia le vesti fa anche una tevilah, un'immersione nel mikveh. Ora, a questo punto, sì, questo punto nel giorno del Kippur, del Beit HaMikdash, nel servizio del Kohen Gadol, l'ultima cosa che abbiamo detto nella Mishnah finale del capitolo precedente è stata che al Kohen Gadol è giunta la notizia riguardante il capretto che è stato mandato fuori all'Azazel, al deserto. Sì, abbiamo studiato come. Esattamente. Ora, quando appunto giunge questa notizia, qual è la prossima fase del servizio del Kohen Gadol? Ecco che sarà descritta in questa Mishnah. Leggiamo il testo della Mishnah. La Mishnah dice che a questo punto, Ba'alo Kohen Gadol Likrot. Il Kohen si muove da dove era e viene, ora vediamo dove viene, verso dove, e per che cosa? Per Likrot, per la lettura del Sefer. Cioè a questo punto, che gli è giunta la notizia riguardo il capretto che è arrivato fino al deserto, ora è il momento di leggere il Sefer Torah per la lettura del giorno di Kippur. Ed è lui stesso normalmente che lo leggerà. Quando diciamo viene, da dove viene, a dove si sposta, allora se voi guardate nella prossima pagina c'è uno schema del Beit HaMikdash. Lui si sposta verso il luogo che si chiama Ezrat Nashim. Ezrat Nashim è la grande sala, la parte est del Beit HaMikdash, che in ognuno degli angoli c'è un locale, e in questa grande sala avveniva la lettura, come lo sappiamo. Lo sappiamo anche perché più avanti si dice che il Kohen si alza in piedi per prendere in mano, ricevere in mano il Sefer Torah. Da quanto si dice si alza in piedi, vuol dire che stava seduto e non poteva stare seduto, era vietato stare seduti se non che in questa sala qui, nelle parti più interne del Beit HaMikdash, dove lui svolgeva la Avodah, Ezrat HaKohanim e così via. Lì era vietato stare seduti anche per il Kohen Gadol. C'è solo una eccezione, che è il re, e il re della casa di David, che può stare seduto, ma in questa Ezrat Nashim poteva stare seduto, e qui avveniva la lettura del Sefer. Ora la Mishnah dice, torniamo alla Mishnah, di nuovo, Ba'alo Kohen Gadol Likrot, veniva a leggere, cioè la lettura del Sefer Torah. Imrotze bevigdei butz, se vuole rimanere nelle sue vesti di lino, cioè le vesti bianche, nelle quali era vestito perché in precedenza stava facendo le korbanot specifiche di Yom Kippur, come avevamo già descritto precedentemente, quindi era vestito con quelle bianche. Allora, se vuole rimanere vestito così, può rimanere vestito così e prosegue con la lettura. Corè legge. Ve'imlo, se invece non vuole rimanere vestito con quelle vesti per la prossima fase che è la lettura, allora Korebi itztelit lavan mishelo. Si legge vestendosi in una sorta di tunica bianca, però sua personale. Cosa vuol dire sua personale? Perché in effetti la lettura del Sefer non è uno dei servizi del Beit HaMikdash, non è parte integrante della Avodah che il Kohen Gadol deve fare. Non è considerata una Avodah, una mitzvah, ma non è la Avodah del Beit HaMikdash, si fa anche al di fuori del Beit HaMikdash, no? E di conseguenza lui può leggere il Sefer anche vestito con una veste sua personale. In altre parole, una cosa che è la Avodah non si può fare con un'altra veste. Una cosa che è una avodà esclusiva del Beit HaMikdash si può fare solo vestito così come il Kohen o il Kohen Gadol che sia, deve essere vestito per l'avodà. Ma questo è Con le regole con la regola quello del vestiario. che dice, Ma questa che non è una avodà, può fare, se non vuole rimanere nella sua veste bianca, può mettersi una sua veste personale, tunica personale. Da qui si impara anche un'altra cosa, ovvero che durante che il vestiario ufficiale può essere indossato anche per una cosa che non è l'avodà. Vuol dire se lui volesse potrebbe rimanere con le vesti bianche anche per la lettura del Sefer che non è un'avodà esclusiva del Beit HaMikdash. E comunque sarebbe permesso. Questa Mishnah ci sta insegnando anche, tra che si parentesi, può leggere dall'altra parte, dall'altra quindi parte possiamo capire che il Kohen ha il permesso di godere, tra virgolette, cioè di coprirsi con la veste non ufficiale, esclusivamente. no, non esclusivamente, vuol dire ovviamente nel contesto, non può andare a casa e vestirlo, però nel contesto, nella giornata, può rimanere vestito con quello. Anche se sta facendo una cosa che non è esclusiva del Beit HaMikdash, della Avodah. Ok? Sì, voglio Prego. dire, praticamente se lui non è, cioè diciamo, se non fa parte del servizio obbligatorio, quello della lettura del Sefer, Sì. però perché lo fa lui, lo fa il Kohen Gadol? Non può fare qualcun altro, È dici? un'ottima domanda. Perché lo fa il Kohen Gadol la lettura del Sefer se non è obbligatorio? Per rispetto del Kohen Gadol. Questo è come abbiamo già visto che in precedenza che si fanno di cose diverse, Kippur, per portare rispetto speciale, vedremo anche qui in questa Mishnah il modo in cui gli si porta il Sefer in una maniera particolare, e alcune cose che si facilitano per fargli più facile rispetto a quello che si fa gli altri giorni, eccetera. Tutto per magnificare, diciamo, il rispetto di chi sta rappresentando Am Israel in quel giorno sacro di Yom Kippur. Scusa, ma Sì? a che livello è il criterio di scelta, tra virgolette, di opzione che ha il Kohen Gadol per cambiarsi o meno? Che vuol dire che livello? Cioè è una pura semplice, vabbè, Una non mi sua va di decisione cambiare. No, personale. il livello, sulla base di che criterio? A qualche, anche banale, vabbè, ma non mi va di cambiarmi, rimango così? O c'è qualche risvolto, qualche sfumatura che può portarlo o meno a poter scegliere se rimanere. È banalmente proprio la sua volontà. Vabbè, Sì, sto così, rimango così, non mi va di da quello cambiarmi. che dice la Mishnah sembrerebbe che è una sua scelta. Però Una sua scelta quindi aperta a qualsiasi. non Non ci sono così. No, cose più profonde. ma è la per scelta. quanto ci riguarda adesso, Basta così. basta così, sì. Ora, procediamo nella Mishnah con la descrizione qui nella seconda riga di cosa avviene. Il Kohen decide in base alla sua scelta come vuole essere vestito per la lettura e poi Chazan HaKneset. Chazan vuol dire nel linguaggio della Mishnah lo Shamash. Non è l'officiante come oggi usiamo il termine Chazan, è lo Shamash. Hazan sarebbe quello che anche canta le brachot. No, no, ah, noi usiamo nella così. Città nostra. Noi usiamo il termine Chazan come ufficiante, sì, sì. Chi canta, chi legge. Nel linguaggio della Mishnah, Chazan vuol dire lo Shamash. C'è un motivo per cui si chiama Chazan nel linguaggio della Mishnah, perché Chazan dalla parola José, José, la Chazot, vedere. Lui deve vedere cosa manca, cosa c'è da fare, eccetera. Lo Shamash. Non so come si traduce Shamash in italiano. Un usciere, una sorta di... Nella chiesa c'è il nome, ma non lo voglio Siamo dire. Chazan HaKneset, lo Shamash del Tempio, per Tempio si intende che al di fuori del Bet HaMikdash c'era un Bet HaKneset, un luogo di preghiera, sì. E lo Shamash di quel Bet HaKneset notel Sefer Torah, prende il Sefer Torah dal suo luogo... Venotenò le Rosh HaKneset e lo dà al capo del Bet HaKneset. Questo è come dire il Gabbai, cioè quello che decide chi prende la chiamata al Sefer, chi va a officiare sulla Teva, eccetera. Scusa, non ho capito una cosa. Sì. C'è il Shamash, lo Shamash, c'è il Chazan che fanno lo stesso lavoro. No, no, lo Chazan no. Questo. No, Chazan, ho tradotto Chazan, Shamash. È Shamash, è lo Shamash, Chazan. Ah, è lui la stessa persona. No, ho spiegato dice, quando la... No, écoutez-moi. La Mishnah cosa dice? Chazan HaKneset. Sì. Io ho spiegato chi è il Chazan HaKneset. È quello che oggi noi chiamiamo Shamash. Sì. Nel linguaggio della Mishnah lo chiamavano Chazan. Esatto. È la stessa persona. Perché lo Shamash. Dice due volte. Una volta Chazan e una volta Shamash. No, dove c'è scritto Shamash? Ti sta tu hai detto Hamas e Shamash. No, l'ha spiegato. Spiegato che è quello che mi ha confuso. La traduzione di Chazan è Shamash. Va bene, va bene. Non è Mishe Mit Chazen, è Mishe Meshamesh. Okay. Colui che fa la funzione dello Shamash. Questa persona prende il Sefer Torah e lo dà in mano al Rosh HaKneset. Cioè quello che è responsabile del Bet HaKneset. Verosh HaKneset notenò la Segano, la Segen. Il capo della Knesset, del Bet HaKneset, dà il Sefer Torah in mano al suo vice. Al vice del Kohen Gadol, non al vice suo, al vice del Kohen Gadol. Okay. Perché è stato spiegato all'inizio di questo trattato di Yomà che il Kohen Gadol aveva un vice che era anche predisposto, in particolare per Kippur, che se per qualsiasi motivo il Kohen Gadol non potesse fare il suo servizio, sarebbe il vice che prenderebbe il suo posto. Ora che il Sefer Torah è in mano al Segan, cioè al vice del Kohen Gadol, è lui che lo dà in mano al Kohen Gadol. Notenò le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol Omed, e quindi il Kohen Gadol per rispetto del Sefer si alza in piedi, ecco qui ecco la parentesi che ci è stato detto prima che stava seduto, quindi non sta dentro l'Azara, sta nell'Ezrat Nashim, come dicevamo. Omed un Mekabel, si alza e riceve il Sefer, ve corre Omed, e legge il Sefer rimanendo in piedi. Cosa legge? Quale brano del Sefer legge? La Mishnah ci dice Vekore Acharemot, cioè legge nella parasha di Acharemot tutto il brano che è riferito alla Avodah del Bet HaMikdash nel giorno di Kippur. Anche noi leggiamo questa parasha la mattina di Kippur sul Sefer Torah. Ma lui aggiungeva poi un'altra parasha, Ve'ach Be'assor, che è poco distante dalla parasha di Acharemot, c'è nella parasha di Emor, ci sono dei brani relativi a tutti i Moadim e anche a Kippur, e lui legge il brano relativo a Kippur nella parasha di Emor, che è intitolata Ach Be'asor Lachodesh Hashevi, il decimo giorno del settimo mese che è Kippur. Questi sono due pezzi della Torah che lui legge, e però qui c'è sottointeso un problema alachico. Il problema è che quando bisogna girare il Sefer per arrivare ad un'altra parasha, cosa si fa? Noi cosa facciamo? Noi usiamo due Sefarim. Per quale motivo? Perché non si può fare aspettare il pubblico mentre si gira il Sefer. per rispetto del pubblico e per rispetto della funzione. E di conseguenza, normalmente quando serve una seconda lettura, come Rosh Chodesh o Moed, eccetera, noi facciamo uscire dall'Eichal due Sefarim per questo motivo qua. Qui però si parla di solamente un sefer e della lettura di due parashiot, uno è Acharemot e uno è Ach Be'asor. Come si risolve il problema? Il problema si risolve nella seguente maniera, spiegano i commentatori. Visto che usavano all'epoca che la lettura del sefer avveniva nella seguente maniera, chi leggeva il sefer leggeva un versetto, e poi c'era un'altra persona. Il suo titolo è Meturgeman, dalla parola Targum, traduzione, che aveva il compito di leggere ad alta voce lo stesso versetto, ma in aramaico, tradurre verso per verso. Visto che in questo caso la parasha di Ach Be'asor non è lontana dalla parasha di Acharei Mot, la prima che legge e poi la seconda non è lontana dalla prima, allora, mentre il Meturgeman spiega e traduce l'ultimo versetto che lui ha letto, lui può facilmente girare il Sefer per arrivare a Ach Be'asor senza fare attendere il pubblico Senza cambiare sefer, e sempre. senza cambiare Sefer, perché in questo caso si usava solamente un Sefer. Invece. Ma è per questo, scusa, che si dovrebbe leggere la Torah tre volte, cioè in ebraico, in aramaico, no, qualcosa del genere. Questo è Non prende per spunto da questa No, no, doppia lettura del è momento. una cosa parallela, diciamo, è per preparare la parasha. No, dico che ancora adesso si Sì. dovrebbe. Ah. No, è un'alaha diversa, è un'alaha diversa, sì. Dopodiché, ora la Mishnah ci dirà che c'è in realtà ci sarebbe una terza parasha da leggere. Qual è la terza parasha? Allora, noi oggigiorno, la mattina di Kippur, leggiamo due Sefarim, Acharei Mot, come la prima lettura del Beit HaMikdash, ma poi non leggiamo Ach Be'asor. Sul secondo Sefer noi leggiamo, nella parasha di Pinchas, nel libro di Bamidbar, il brano che descrive il Musaf, cioè il Korban Musaf, quale sarebbe il sacrificio aggiuntivo del giorno di Kippur. Come facciamo in realtà per tutti i modi, ma anche per Rosh Chodesh. Questo però lui non lo legge sul Sefer, e vediamo, lo legge ma a memoria, vediamo come funziona. La Mishnah dice: dopo che legge Ach Be'asor, prosegue la Mishnah e descrive: Vegollel, Gollel vuol dire arrotola, chiude il Sefer, Gollel et HaTorah, umanicha becheiko, e se lo tiene in braccio, veomer, e dice: Yoter mimma shekariti lifnechem katuv. Comunica al pubblico che queste parole, più di quanto io ho letto, è scritto qui. In altre parole, quello che adesso io reciterò è anche scritto sul Sefer, anche se non lo leggo dal testo. Questo per assicurare che non si pensi che nel Sefer manca qualche brano. Allora dice: io adesso leggerò qualcosa senza leggerlo dal Sefer, ma sappiate che è tutto scritto nel Sefer. Il Sefer non manca, non è mancante di nulla. Però lo legge, cosa legge? Ubeassor shebechumasha pekudim, il brano di Musaf di cui parlavo prima, che noi leggiamo sul secondo Sefer della mattina di Kippur, che è nel libro dei numeri, Chumasha pekudim lo chiama, il libro di Bamidbar, il quarto libro della Torah, vekore al pe. Lo legge a memoria. Perché? Per lo stesso problema che dicevamo prima, per non far aspettare il pubblico mentre deve girare il Sefer per arrivare fino a verso la fine di Bamidbar, da dove lui sta nel libro di Vaikra. Dovrebbe girare un intero libro. E quindi non lo fa, chiude il Sefer, dice: guardate che questo Sefer ha tutto ciò che deve avere, ma io lo leggo. Lo recito, diciamo, senza leggerlo, e legge quella parasha al pe, a memoria. Ma non c'è una regola che quando leggi devi vedere le parole che tu dici. Se che legge a memoria non è tanto ben visto, diciamo. O no? Esiste, sì, hai detto una cosa giusta. Normalmente quando si legge bisogna leggere dal testo e non a memoria. In questo caso però ci sono altre considerazioni. Una considerazione è quella che dicevamo, che si chiama Tircha de Zibura, cioè far aspettare il pubblico. Un'altra considerazione è che all'epoca si usava non portare un secondo sefer perché appunto non si pensi che il primo sefer sia invalido. E queste considerazioni prendono, diciamo, la priorità rispetto alla considerazione di leggere direttamente dal testo. Poi è un Kohen che lo fa, non è Kohen Gadol. Non ecco, è solo lui lo può fare. È il Kohen Gadol che adesso siamo nel punto che dice a memoria, mentre sì. Per non far pensare che è quello. È sempre lui. Per non girare fino a quella. Sì. Ok, ora la Mishnah dice quali sono le berachot che il Kohen Gadol recita relativamente a questa lettura del Sefer. Umevarech aleha, e benedice la berachah relativa alla lettura, shemone berachot, 8 benedizioni, 8 berachot. Quali sono le 8 berachot? La prima è al HaTorah, la berachah del Sefer che sempre diciamo noi, sia prima che dopo la chiamata al Sefer, e qui viene elencata come una berachah. Entrambe, la prima e dopo, qui contiamo numero 1. Poi, quali sono le altre 7? Ve'al ha'avodah. Al-Avodah inizia come anche noi iniziamo, si chiama anche oggi la bracha dell'Avodah all'interno dell'Amidah, che è Retze Hashem Elokeinu Be'amcha Israel. Chiediamo in questa bracha che HaKadosh Baruch Hu accetti la nostra tefilah, la nostra Avodah, il nostro servizio. E lui conclude con, in maniera diversa di quanto facciamo noi, conclude con Habocher ba'avodat amo Israel brachamim, Kadosh Baruch Hu, colui che sceglie l'avodah, il servizio del suo popolo Israel. E questa è la seconda bracha. La terza bracha è Ve'al ha'hoda'a modim, cioè il ringraziamento, come facciamo nell'Amidah, che segue Retze, esattamente, che è una prossima bracha. Poi la quarta berachah sarà Ve'al Mechilat Ha'avon. He Avon. Cos'è Avon? Avon, peccato. Avonot. Come si dice a Roma, Gavon. E cosa è questa berachah? Anche noi questa la diciamo nella Midah, che è Selach Lanu, perdonaci, Signore. E conclude Mochel Avonot Amo Yisrael Berachamim. Conclude diversamente. Kakadosh Baruch Hu perdona con misericordia le pecche del suo popolo Israele. Poi la quinta beracha ve'al mikdash bifnei atzmo, una beracha specifica per il Bet HaMikdash, che il Bet HaMikdash possa rimanere in piedi, rimanere costruita, e che la Shekhinah, che la presenza divina, si possa posare sul Bet HaMikdash. E conclude con Baruch Atah Hashem Hashochen beZion, colui che riposa nel Zion. E poi una beracha specifica per Am Yisrael, va'al Yisrael bifnei atzman. E poi ve'al ha'kohanim bifnei atzman, la settima è una beracha, scusate, la sesta di Yisrael vuol dire per Am Yisrael, cioè che HaKadosh Baruch Hu rimanga in mezzo ad Am Yisrael, che la sua Shekhinah si posi sul popolo ebraico, a prescindere dal Beit HaMikdash, che è la beracha precedente. E poi per i Kohanim, che HaKadosh Baruch Hu accetti il servizio dei Kohanim con buona volontà, e si conclude Mekadesh HaKohanim, colui che santifica i Kohanim. E poi l'ultima, ottava beracha, Ve'al She'ar HaTefilah, che le altre tefilot siano accettate, chiunque ha bisogno di una salvezza, di una cura, di qualsiasi cosa. E conclude come anche la tefilah generica che diciamo noi nell'Amidah, Baruch Atah Hashem Shomea Tefilah, che lui ascolta ogni tipo di preghiera, di richiesta. Questa è l'ottava berachah che il Kohen faceva seguendo la lettura del Sefer Torah. Ora, nella seconda Mishnah di questo capitolo, la Mishnah dice praticamente prima di leggere questa Mishnah, e lo capiremo leggendolo, che la seguente cosa. Mentre il Kohen legge queste parashiot della Torah, cosa accade? Vengono arse sull'altare le korbanot di cui lui si stava occupando prima, che abbiamo visto si è fatta la shechita, lo spruzzamento del sangue, del par vesair, del toro del Kohen Gadol e del capretto, quello che rimane per Hashem, la coppia di quello che viene mandato all'Azazel. Ok? Cioè, mentre lui legge... Mentre lui legge, queste korbanot vengono messe sul Mizbeach. Sì. Ok? Allora... Attraverso quel percorso che abbiamo già visto. Tutto quello che abbiamo visto, che Poi le devono bruciare. Allora, una persona o un Kohen che è presente nel Beit HaMikdash in quel momento deve scegliere se vuole assistere alla lettura o se vuole assistere al Korban. Ancora, la buccia tua. Oh, allora, perché qual è cosa c'è di bello da assistere alla bruciatura? È per rispetto del servizio del Beit HaMikdash. Più persone assistono, più bello è, più rispetto c'è. Come qualsiasi cosa che si fa, che si dà rispetto, si fanno assistere più persone, Berov Am Hadrat Melech, è scritto, credo, nei proverbi, se non sbaglio, cioè più popolo c'è e più è il... Il rispetto, il hadrat, diciamo, come posso dire, il hadar, no? La bellezza, mi sfugge qualche altra parola. Magnificenza. Sì, in qualche senso così. Cioè, è come una partecipazione, sottolineare la partecipazione più globale. Sì. Anche. Più persone, più, esatto. Più popolo c'è, esatto. E più onore c'è. Più onore. Allora, è anche quindi una mitzvah assistere al Korban. Mm-hmm. Allora, la domanda è una domanda alachica. Siccome normalmente, quando ci stiamo occupando di una mitzvah, è vietato trascurarla per fare un'altra mitzvah. En ma'avirin alla mitzvot, c'è una regola generale. Non si passa oltre la mitzvah che si ha in mano per farne un'altra. La Mishnah ci sta insegnando che assistere ad una mitzvah non rientra in questa halakha di non trascurare una mitzvah, perché assistere a una mitzvah non è sullo stesso livello di fare la mitzvah. E quindi quando tu hai una mitzvah che devi fare per obbligo, non la trascuri per farne un'altra. Però a guardarsi può. Ma se assisti, puoi lasciare questa per assistere a un'altra. Allora la Mishnah lo esprime in questa maniera. Com'è? Quindi possono assistere alla bruciatura, diciamo, e perdere la lettura, o viceversa. Lo vediamo nel testo della Mishnah. La Mishnah dice: Harro'e Kohen Gadol Shehu Kore, colui che assiste alla lettura del Kohen Gadol, e in Noro'e Parve Sairan Israfim, non ha la possibilità di vedere il toro e il capretto che vengono arsi sull'altare, perché avviene allo tempo stesso. Il contrario, chiaramente, viceversa, Varoe Parve Sairan Israfim, chi assiste al korban di questi due korbanot che vengono arsi sul Mizbeach, e in Oroe non vede, non assiste al Kohen Gadol che su Kore, mentre legge. E la Mishnah spiega, velo mipnei shei no rashai, non perché non sarebbe permesso. In altre parole, la Mishnah ci sta insegnando quello che ci dicevo prima, e sarebbe permesso distogliersi dall'uno per andare all'altro, perché sta solo assistendo, anche se l'assistere rientra nel concetto del kavod, del berov am, più popolo c'è, più kavod è. Però, qui non c'è il divieto di trascurare la mitzvah che normalmente c'è. È solo perché, allora perché non può fare tutte e due? E la Mishnah spiega, shaita derech rechoka. Non era vicino il Mizbeach dal luogo nell'Ezrat Nashim in cui si faceva la lettura. Quindi praticamente o facevi una o facevi l'altra, anche per una questione logistica di spostarsi da un posto all'altro posto. Scusate, ho fatto un errore. Mi sono dimenticato. E quello che abbiamo detto prima, che venivano arsi il toro e le... Dove venivano arsi? Non sul Mizbeach, scusatemi, se no la distanza non sarebbe stata così lontana. Fuori, bravo! Vi ricordate che due Koanim prendevano sulle quattro Koanim sulle come si chiamano? Con le staffe, con no? Le staffe, sì. Oh, allora veniva fatto fuori. Dunque era impossibile per la distanza assistere a tutte e due, ma sarebbe stato permesso volendo. Per questo dice la Mishnah: "Lo mipnei shein o rashai", non perché non è permissibile, sarebbe permissibile, ma fisicamente, logisticamente non era pratico. Umelechet shenehem shavake achat. Visto che c'era questa distanza, che per ardere quelle korbanot venivano portate fuori da Jerusalem, e l'opera di entrambe queste cose, melechet shenehem, l'opera di queste cose avveniva al tempo stesso, shavake achat, al tempo stesso, e allora logisticamente chi assisteva a uno non assisteva all'altro. Ok? Però... Sì. Però è come se avesse. Perché come se avesse? Se va da una parte, diciamo, ha assolto il suo dovere. Sì. Però ci stavano dei gruppi che stavano da una parte e un altro gruppo. Entrambi facevano la mitzvah di Berov Amadrat Melech, esatto. di aggiungere persone all'attività che si sta svolgendo. Ok? Fermo il fatto che chi stava di qui perdeva l'altro. Esatto. Scusa, un'altra sì. precisazione. Che cosa vuol dire Azrat Nashim, il luogo dove c'erano le donne? Si chiama Azrat Nashim, ma non era un luogo esclusivo per le donne. Si chiama Azrat Nashim per un altro motivo. Il motivo per cui si chiama Azrat Nashim è perché durante Sukkot, quando si faceva la Simchat Bet HaShoevah, che era un'occasione molto gioiosa, le sere, le notti di Sukkot, si ballava, si cantava. Sì. Allora, per evitare il miscuglio tra uomini e donne in un contesto di balli e canti, che può portare a leggerezza, contatti, sì. contatti non voluti, allora si costruiva intorno all'Ezrat Nashim un secondo piano, una sorta di balcone, un matroneo, da qui il matroneo della sinagoga, e per questo si ha assunto il nome Ezrat Nashim. Stava sopra o sotto? Il matroneo era sopra, intorno, sulla colonnata. Dove ballavano? Gli uomini ballavano sotto, sotto i saggi, sotto. I tzadikim, e tutti assistevano, gli uomini normali assistevano sotto e le donne assistevano sopra. Andavano sopra, come via Padova. Veniva sì. fatto per consentire alle donne anche di assistere e non stare la funzione. A Per questo si chiama Ezrat Nashim. Qual è letteralmente, cioè la traduzione esatta di Ezrat Nashim? La sala delle donne. Ah. Poi c'è Ezrat Koanim, Ezrat Israel, lo Azara, Azara lo spazio, la sala, uno spazio aperto, diciamo, senza tetto. Ora nella terza Mishnah di questo capitolo, prosegue verso la prossima fase dopo la lettura del Sefer. Cosa dovrà fare ora il Kohen Gadol? Dice la Mishnah, im bevigdei butz kara, o kore, se aveva letto il Sefer nelle vesti bianche, non nel suo veste personale, quindi è rimasto con la veste ufficiale del Kohen Gadol per le cose che deve fare, in particolare per Kippur, allora arriva adesso che deve cambiarsi le vesti, deve mettere le vesti normali del Kohen Gadol, non quelle specifiche di Kippur, quelle bianche. Quindi finita la lettura? Finita la lettura, se stava leggendo con le vesti bianche, sì. cosa fa? Kidesh Yadav Veraglav, deve rifare la netilà, cioè la santificazione di mani e piedi dal lavabo, Upashat, e poi si spoglia dalle vesti bianche. Yarad vetaval, scende nell'acqua per immergersi nel mikve. Alla venistapag, sale, esce fuori dall'acqua e si asciuga. Ok? E questa è la terza volta in questo giorno di Kippur che lui fa la tevilah. Tra parentesi, prima di proseguire. Se invece lui ha letto nella sua veste personale, non nelle vesti ufficiali bianche, vuol dire che lui prima di togliere le vesti bianche per mettere la sua veste personale, ha già fatto la netilà, la kiddushia da inveraglaim, la santificazione mani e piedi sul lavabo. Quindi cosa deve fare? Solo la tevilà, solo l'immersione. Perché avrebbe fatto il kiddush prima. Il kiddush vuol dire la santificazione mani e piedi dal lavabo. A quel punto si veste, in entrambi i casi, con le vesti chiamate Bigdei Zahav, vesti d'oro, cioè le vesti normali del Kohen Gadol che veste tutti i giorni. E viu lo Bigdei Zahav, gli si portano le vesti d'oro, velavash, le veste, e di nuovo kiddush yadav veraglav. E fa la quinta volta di oggi il kiddush yadayim veraglaim, la santificazione mani e piedi dal lavabo. Veyatza, esce da quel luogo. In teoria non è proprio dentro, perché se sta facendo il lavaggio di mani e piedi, questo è già dentro il Bet HaMikdash, perché il lavabo è tra il Mizbeach e la struttura del Kodesh. Viene verso fuori, Yatza, e cosa fa ora? Veasa et eilo vet el ha'am. Si occupa di due korbanot, il suo montone e il montone che è portato a nome del popolo, uno a nome suo del Kohen Gadol e uno a nome del popolo, che sono entrambe korbanot olà, sono delle korbanot che vengono completamente arse. Non si consuma una parte di questo korban, la persona. Ve'et shivat kevasim temimim b'nei shana, inoltre sette pecore, che queste sono insieme il korban musaf del giorno di Kippur, come spiegato nella parasha di Pinchas, che si legge, anche noi lo leggiamo nel secondo sefer della mattina di Kippur. Divrei Rabbi Eliezer. Questa è l'opinione di Rabbi Eliezer. Scusa. Sì, sì. Questi korbanim, i primi korbanim, sì, e i love e la. Sì. Prima di essere bruciati li hanno, perché qui li bruciano interi. No, non esiste bruciare interi. No. In ogni caso che qui parliamo, no. Ah, no. Non è esplicito, ma in ogni caso che parliamo di un korban vuol dire shechita, e poi tutto li quanto. E poi li fanno. Esatto. No, quando si dice che vengono arsi interamente sul Mizbeach, si intende dire che tutta la carne, non c'è una parte che viene consumata dal Kohen o da qualcun altro. Questo si intende. No. Quindi in questa fase si occupa dei due montoni e delle pecore per la fase di bruciatura. No. Tutto, dalla shechita fino alla bruciatura. Ah, se ne ho, come nel senso che adesso comincia. Adesso inizia a parlare queste korbanot. Di queste korbanot. Sì. Adesso ci sono questi sette. Rabbi Akiva Omer, mentre invece l'opinione di Rabbi Akiva è che queste sette di cui abbiamo appena parlato si facevano già dalla mattina. Im tamid shel shachar hayu krevin. Queste sette pecore del Musaf venivano, krevin, venivano sacrificate subito dopo il tamid shel shachar, subito dopo il korban quotidiano mattutino, quello con cui si aprono i lavori del Mizbeach ogni giorno dell'anno. E subito venivano fatte queste sette, secondo lui, del Musaf. Mentre upara olav e saira nasea bachutz, ayukrevin im tamid shel ben arbaim. Mentre secondo lui il toro della Olà e il capretto che veniva fatto all'esterno vuol dire, a differenza di quello di cui abbiamo parlato prima, che il suo sangue veniva spruzzato all'interno del Kodesh HaKodashim, l'altro capretto si chiama che viene fatto all'esterno, cioè che non viene introdotto il suo sangue dentro il Kodesh HaKodashim. Secondo lui questi due korbanot venivano fatti prima dell'ultimo korban del giorno, che è in tamid el ben arbaim, il korban quotidiano del pomeriggio, esattamente. Allora vi spiego, c'è una lista di korbanot che avvengono in questo giorno. Sì, un po' tanti, eh? Sì. Ora vi dico esattamente. Che si è messo l'ultimo banco? Ma che freddo. Perché noi non abbiamo fatto riferimento a questo capretto che viene fatto fuori prima nella Mishnah, è Rabbi Akiva che lo introduce. Allora, la lista delle korbanot che avviene nel giorno di Kippur è questa. E come sempre ci sono due opinioni. In generale si parla di 16 korbanot totale che avvengono nel giorno di Kippur. Primo è quello che comunque c'è ogni giorno, Tamid Shel Shachar, il korban quotidiano di ogni mattina. Quello pomeridiano, che anche quello c'è ogni giorno, quindi due tamid, e questi sono due. Poi c'è un toro e un montone che sono un'offerta del Kohen Gadol, come scritto nella Torah, e quindi siamo in tutto quattro. Poi c'è un capretto e un montone a nome del popolo ebraico. Un capretto è inteso uno della coppia, il secondo della coppia che va nell'Azazel, non è contato in questa lista perché non viene messo sul Mizbeach, chiaramente. Stiamo parlando di quelli che vengono messi sul Mizbeach. E quindi sono sei adesso. Il capretto e l'altro? Un montone. Ah, il montone. Un altro montone. Sì. Allora siamo in tutto arrivati a sei. Siamo già due montoni. Poi abbiamo il Corban di Musaf, cioè un toro, un altro toro, un altro montone e sette capretti, quindi 9. No, eravamo a 6, adesso siamo un altro toro, sono 7, un altro montone sono 8, più 7, 8 più 7, 15, e questi ultimi che abbiamo detto, quindi le 7 pecore, un toro e un montone sono il Korban Musaf di Kippur, ok? Più un, incluso in questo ci sarebbe anche un capretto, che è questo il capretto di cui parlava Rabbi Akiva, Saira Nase Bachutz. Il capretto che fa parte del Korban Musaf, che è quello che viene fatto fuori, cioè non viene fatto all'interno del Kodesh HaKodeshim, il suo sangue. 16. E in tutto sono 16. L'opinione invece di Rabbi Yehudanasi, redattore della Mishnah, il Tana della Mishnah, è che c'erano in tutto 15, non 16, perché secondo lui il montone, che è Ail Echad Leolà, un montone come Olà, è secondo lui lo stesso montone del Musaf, che è menzionato anche nella parasha del Musaf e anche nella parasha del Kippur, ma secondo lui è lo stesso montone. Quindi la nostra Mishnah qui segue l'opinione di Rabbi, che c'è un solo montone. Sì, 15. Sono 15 e non 16, quindi secondo questa Mishnah. Il quarto e il sesto sarebbero lo stesso animale. Esattamente. Quindi secondo la nostra Mishnah che noi abbiamo studiato, abbiamo in tutto appunto 15 bestie, come abbiamo detto, di cui 3 sono Korban Chattat, 3 sono un Korban di espiazione. Quali sono? Sarebbero il toro del Kohen Gadol, il capretto che rappresenta Am Israel, sul quale è uscito il nome di Hashem, quello che avrebbe la coppia che va all'Azazel. Sì. E un altro capretto di Chatat che fa parte delle Korbanot del Musaf di questo giorno. Secondo capretto, quello che viene fatto all'esterno, abbiamo detto. Questi sono 3 Chatat. Le prime due, il toro e il primo capretto, si chiamano Chatot interne, perché il loro sangue, come abbiamo descritto nello scorso capitolo, viene spruzzato all'interno del Kodesh HaKodashim. Giusto? Le prime due. Yehuda, ci sei? Sì, sì. Quindi si chiamano Chataot Apnimiot. Pnimiot vuol dire che sono interne. Perché interne? Perché il loro sangue viene spruzzato dentro il Kodesh HaKodashim. Dopodiché, tutte le altre 12 che rimangono, oltre questi 3 che abbiamo detto adesso, che appunto la terza si chiama Chatat, però Chitzonit, esterna, il capretto che è del Musaf, che viene fatto però all'esterno, non all'interno. E le altre 12 behemot, tutte le altre 12 bestie, sono, di nuovo, il tamid della mattina, quello della sera, il montone del Kohen Gadol, il montone che rappresenta il popolo, che secondo Rabbi è lo stesso montone che poi si parlerà anche nel Musaf, un toro e sette pecore del Musaf, in tutto 12, più 3, 15, secondo la nostra Mishnah. Scusa, ma il capret che va mandato l'Azazel non ha diritto a nessuna considerazione. Perché non ha diritto a considerazione? Certo che ha diritto, abbiamo fatto tutto un capitolo su quel capretto. Non è contato qui perché non va sul Mizbeach. Questo è l'elenco. Non è una discriminazione. Qui stiamo calcolando quali sono le korbanot che salgono sul Mizbeach. Il Sair di Azazel è un korban che non sale sul Mizbeach, quindi non è incluso in questo elenco. Non è un discorso di discriminazione. Questo capretto poi ignorato, insomma. No, vabbè, ma è sacrificato comunque, è considerato sacrificato. Allora, solo per chiarire, l'ordine è? No, quelli che venivano arsi fuori venivano contati nei 15. Sì, fuori, sì, perché... Sì, io si finiva fuori, ma cominciava dentro. A me mi interessava il primo che è andato all'Azazel, che non c'entrava niente. Sì, venivano fatti. Sì, assolutamente, perché i loro grassi vengono messi sul Mizbeach e i Murim, abbiamo detto. Si cominciava dentro e poi finiva fuori. Sì. Allora, diciamo, l'ordine del giorno è questo. La prima cosa è Tamid Shel Shachar, il Talmid della mattina. Quello della mattina. Ok. Dopo il Tamid Shel Shachar seguono il toro del Kohen Gadol e il capretto della Shem, del popolo, quello che va, questi due sono interni, quello che abbiamo descritto, che il Kohen Gadol entrava dentro per spruzzare nel Kodesh HaKodashim, ok? E dopodiché seguono questi che abbiamo detto qui nella nostra Mishnah, esce fuori dalla lettura del Sefer, è qui che subentra la nostra Mishnah, e parla delle prossime korbanot, cioè, secondo Rabbi Eliezer, anche quelle di Musaf, e anche il montone e il montone del popolo, il montone suo e il montone del popolo, e tutte le korbanot di Musaf. Mentre secondo Rabbi Akiva, le pecore del Musaf venivano fatte precedentemente, dopo il korban quotidiano della mattina. Questa è la discussione tra Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva. Prima di Kohen Gadol, allora. Prima di quello del Kohen Gadol, esattamente, bravo. Lui lega il Korban Musaf al Korban Tamid, che è Tamid e poi Musaf. Perché nella Torah sembra che le due cose siano legate, perché è scritto Mileva, dolata bocca e rascella olata Tamid. A parte la Olà quotidiana, c'è anche questa. Dopodiché lui dovrà di nuovo svestirsi e rivestirsi, come vedremo nella prossima Mishnah, che è la Mishnah 4, che studieremo alla prossima lezione, se Dio vuole.